cercando di farlo girare anche questo. L'altro era l'M600. Fattirsi tutti 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova, ora, ora, 1, 2, 3, prova, ora, 1, 2, 3, prova, ecco qua se ce l'ho in mano. Sì, no, l'eco lo fa fischiare, innesca subito. Non lo so, c'è le cuffie tu, giusto? E anzi, con le cuffie non vorrebbe essere di meno. Senza cuffie sarà peggio. No, sono trafferito, ce l'ho collegato. Le cuffie, capite? Adesso c'è da cambiare il portabatteria, che è disintegrato, che deve essere a posto. Adesso gli metto il condensatore. Aspetta se tu. E vedi come, no, perché vedi, lo devo toccare per fare massa, perché lì ovviamente gli manca tutta la carcassa, capito? Quindi adesso gli metto un po' di liquido, aspetta che lo fa un attimo. Cioè, sai quando innesca subito, quando c'è il pallascoltami, allora che gli fai il pallascolta l'apparato, allora come coso non fa, perché con il pallascolta non fa, innesca subito, ti fa quell'innesco, capito? Con la, quando gli metti l'amplificazione l'eco, che apri l'eco tende a innescare, se c'è il parlare, ma non penso che ci abbia il pallascolta, quella radio che stai operando tu, non penso proprio. No, no, questo non è. Aspetta, adesso è tutto. Aspetta, però no. Aspetta, però devo. Ok, dai. Ecco troppo. Potrebbe essere anche quel potenziometro. Beh, niente, bisogna che ci mettiamo il condensatore per la prova, e se io lo faccio. Se ci senti chiaro, no. Vedi, prova a abbassargli appena appena a chiudergli un pelino il Michigi, così per curiosità, a vedere se ti innesca sempre, se lo, ma se glielo chiudi un'idea, prova a chiuderlo un'idea. Allora, poi se l'ho chiuso, vediamo. Se sono lui il ok dai, no, se sollevo ora 1, 2, 3, prova, no, ora sollevo, ma mi dispiace. Sembra fare questo nuovo di fondo. Così no, e ecco. Adesso vediamo cosa riesco a fargli, eh. Sicuro dentro la scheda, l'eco c'è una scheda, no? In una scheda ci sono dei trimmer, dentro ce l'ha dei trimmer da regolare, per togliere quelle, almeno quel fischietto se non altro. No, questo non è che i microfoni con l'eco, sono tutto integrato in una scheda, però alla fine, aspetta se lo vediamo. Alla fine, con il microfono si fa questa rivelazione che c'è un piccolo riverbero, ma la rivelazione funzionerà così, dai, non è male, non mi metto a sostituire altri componenti, perché sono senza scheda, quindi non so nemmeno come gira, ci sta andando a sentimento. Quando tu hai detto di chiudere un'idea al Michigi e aprire appena l'eco, la radio era più amplificata ancora, non si sentiva quell'innesco, però si sentiva leggero quel fischietto, capito? Ed è sparito l'innesco, capito che faceva, però si sentiva, perché di solito quando tu dai un po' d'eco, col Michigi tutto aperto, tende a fare quell'innesco, quello famoso, capito? Lasciandoli tutta la radio aperta, perché tu gli stai già amplificando, aprendolo di amplificazione, capito? E allora aprendo l'eco gli dai più amplificazione, allora tende a innescare, a fischiare, capito? Perché non ammazza questa cosa, c'è tutta la mano più aperta, e potrebbe essere anche quello, infatti come poco. Allora adesso gli faccio due lavoretti, uno gli mette il condensatore e poi un attimino di chiudere e vedere se magari non lo fa, ne va bene, comunque, quanto è troppo, ce lo stavamo buttando, quindi anche troppo, non è male, va bene, tutto di recupero. Dipende, ma non hai provato qualche altra radio a vedere se è cambiata? No, non ho sempre su una, l'hai provato. Fabri, tutte le adattature mi ho fatte per stare a spostare sempre il cavo, ma mentre mi hanno un apparato e c'è un attacco di spinotto di vecchio, mi sono fatto tutti gli attacchi, tutti quelli che mi sono capitati a tiro di apparati, baracchini, mi sono fatti tutti gli adattatori, capito Fabri? Sì, sì, qualcuno l'ho fatto anche io, per il K al Texas, per esempio. No, questo è il Texas, la Fayette Texas è sempre a 4, è sempre a 4, perché questi sono tutti a 4. Allora, voglio dire, vabbè, e si termina di lavorarci sopra, provo a mettere questo condensatore e vediamo cosa succede, e poi mi vedremo nella direzione di chiuderlo perché non c'ho questo cavo di come ti si chiama, questo, adesso guardo se da qualche parte riesco a recuperare questa specie di la batteria del Golf, il portabatterie. Ti direi poi un giorno ti do quelle salme più tre se riesci a togliere i piedi. Ci ho provato di tutti i costi e non ci sono riuscito, mannaggia. Sì, funziona, ma non mi dà l'amplificazione. L'amplificazione non me la dà la scheda. Non riesco a funzionare, funziona, esce, normale, però non senza amplificazione. Quando è così bisogna trovare la scala e vedere la fine della bassa, magari qualcosetta, non ce l'ho presente. Io su queste cose qua, come dicevo molte volte, non potrei stare lì a raccontare frottole. Se non uno schema male, non l'ho mai visto, io facevo altro, capito? Quindi non l'ho mai visto se mi sto dilettando in queste cose, però devi avere uno schema, magari ci metti 5 volte più di uno, 6 volte più di uno che a pratica, però qui c'è lo schema, piano piano ci arrivi. È uno schema, è un'esperienza che non hai mai aperta, perché quando quelli che ne sono 4 e 40, adesso lo conosco, però che quando lo conosco, non è lo schema, non è il manuale di servizio, cioè, è impossibile, come fai? Invece con la schema magari, certo, ci arrivi uno, ci arrivi in 10 minuti, perché conosci il difetto, però se tu non lo conosci magari ci metti anche 2 giorni, però già ci arrivi. Se non hai esperienza su quel tipo di apparecchio te lo devi studiare, se no non è cavi i piedi, oppure no, senza scala non è cavi i piedi. So, io ci ho provato, ogni tanto quando ne voglia ci metto, sì, sono riuscito a farlo funzionare, l'abbiamo mandato da una parte, l'ha visto un altro tecnico e si è tenuto un po' di tempo, ha fatto, ma non l'ha trovato, non ce l'ha fatta neanche questo qua. E niente, io ci ho provato io lo stesso, però sicuramente perché c'erano tutti i fili staccati, capito? Il problema era rimettere i fili al posto, farli capitare nel posto giusto e trovare tutti i punti dove collegarli, capito? Io capito, ma diciamo che conferma, prova a scaricare, si trova ancora su internet qui e vedete io qua. E quindi dico, io, mamma mia, mi sono andato alle 10. Allora, passo in quel X, prima mi ascolto che finisco di fargli questo lavoretto, e quindi voglio vedere se innesca ancora. Va bene, se sei qui ci sentiamo più tardi, se no già ci sentiamo alle prossime. Buon correttivo, 144 quando lo farai. Fabri, no, non mi trattengo più, no, anch'io chiudo e me ne vado a nanna, saranno le 11, non lo so neanche che ora sono, non c'è l'orologio a portata di ricordo. No, già mi sono alzato presto stamattina per lavoro e non è un sonno, però vado e mi riposo, tanto però non c'è nessuno in radio. Chiudo io, dai, ciao Fabri, ciao. Ciao, buonanotte, è così, comunque mi ha fatto la luce, buonanotte.